Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. La seconda riguarda il mio blog Guardie o Ladri. Come sapete, tratto di temi di legalità, ma segnatamente di criminalità organizzata ed economia criminale. E in questo mese di agosto, inizi di settembre, avrete visto che mi sono divertito, tra virgolette, a scrivere moltissimo di economia criminale, segnatamente in Calabria, a seguito di una serie di inchieste che sono corse sull'asse Milano-Reggio Calabria e non solo. Prima di tornare a questo, do la seconda informazione di servizio che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, oggi è il primo settembre. In questi giorni, per gli appassionati e cultori della materia, come si direbbe in ambito universitario, intorno alla Madonna della Montagna di Polsi, quindi ci troviamo in pieno Aspromonte, migliaia, centinaia, decine di migliaia di persone, via, diciamolo così, si radunano per onorare la Madonna della Montagna, ma contemporaneamente, da anni, da decenni, da sempre, possiamo così dire, più o meno negli stessi giorni, degli allegri signorotti, che sono degli ndranghetisti, quindi uomini di sangue e di violenza, si radunano per cosa fare? Ma per pianificare le proprie strategie, per raccontarsi le cose che contano, per decidere che cosa fare nel resto dell'anno, per dare nuove cariche, per toglierne di vecchie, per sanzionare e per decidere, perché no, anche azioni delittuose eclatanti. Io certo non mi sorprenderei, anche se purtroppo non abbiamo l'ufficializzazione, che ad esempio, tanto per dirne uno, l'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, proprio lì sia stato deciso. Allora, il santuario di Polsi è uscito fuori alla grande, potremmo così dire, in un'inchiesta che si chiama Il Crimine, che, lo ricorderete tutti, ha tenuto banco su tutti i media. E allora noi che cosa facciamo in questi due giorni? Parliamo proprio del doppio volto del santuario di Polsi, o comunque dell'area che intorno ad esso sta. E con chi lo facciamo? Oggi lo facciamo con un grandissimo magistrato che si chiama Nicola Gratteri, già nostro ospite, che è procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Buongiorno Gratteri. Grazie, buongiorno. Allora, Gratteri, che cos'è Polsi per l'Ndrangheta? Chi sta lì a Polsi custodisce le 12 tavole, è l'Olimpo dell'Ndrangheta. Ormai possiamo dire da secoli, cambiando naturalmente comportamenti, cambiando atteggiamenti, ormai da secoli lì c'è la riunione annuale dell'Ndrangheta, sarebbe una sorta di inaugurazione dell'anno giudiziario, una sorta di riunione annuale nella quale riunione annuale si discute di politica criminale. Certo, cioè certo. A Polsi non si discute, non si decidono la realizzazione di reati fine, cioè per capire bene cos'è il crimine e per non confonderlo con la cupola paralelitana come alcuni hanno fatto. Esatto. Il crimine è un organo di strategia criminale, di custode delle 12 tavole, nel senso di soggetti preposti all'osservanza e al far osservare il codice dell'Ndrangheta. La legge parallela dell'Ndrangheta. Sarebbe una corte costituzionale. Esattamente. Allora, Gratteri, però ci spieghi questo. Quest'anno, secondo lei, che cosa succederà? Le cosche saranno impaurite? Saranno tramortite dalla vostra inchiesta che ha decapitato 300 persone? Se ne fregheranno altamente della vostra inchiesta e quindi anche per dimostrare la loro forza in quei giorni comunque lì si riuniranno? Secondo lei che cosa sta accadendo? Guardi, io le posso dire che non è la prima volta che si riesce a dimostrare l'esistenza della riunione a Polsi, anzi addirittura più di 30 anni fa è stato fatto un blitz da parte delle forze dell'ordine, dove è stata interrotta una riunione di 'Ndrangheta. C'erano oltre 300 capi mafia di tutto il mondo lì radunati a Montalto, nel cuore dell'Aspromonte, dove lì si stava discutendo. Lì ai vertici in quel momento c'era Zappia, c'era Antoni Macri, c'era Piromalli, c'era l'elite dell''Ndrangheta, e lì si stava discutendo già 35 anni fa dell'unitarietà dell''Ndrangheta. Infatti diceva Zappia nel suo intervento, diciamo, di apertura, dice: qui non esiste più l''Ndrangheta di Antoni Macri, non c'è l''Ndrangheta di Mommo Piromalli, non c'è l''Ndrangheta di Zappia, qui c'è l''Ndrangheta di tutti. Quindi secondo lei, allora, già decenni fa si discuteva, certo, dell'unitarietà dell''Ndrangheta. Quindi secondo lei se ne fregheranno della vostra inchiesta, cioè non si sa dove, ovviamente, può essere Montalto, può essere un altro posto, questi continueranno comunque a radunarsi, magari proprio per decidere come rispondere politicamente, in maniera politica criminale, come ne diceva, come rispondere alle vostre mosse. Sì, nella sostanza, man mano che passano gli anni, c'è sempre una rimodulazione delle azioni, dei comportamenti. Cioè, ad esempio, mentre prima si radunava 300-400 capi mafia o rappresentanti di capi mafia in una radura, ora cosa si è fatto? Ad esempio quest'anno, ad agosto, durante un matrimonio di oltre, certo, di circa 2000 persone, si sono discusse e decise le cariche. A Polsi, 2 settembre 2009, si sono ratificate queste cariche. Esatto. Si vedeva, abbiamo anche filmati, abbiamo anche fotografie, come i capi mafia, i rappresentanti di capi mafia andavano ad ossequiare il capocrimine eletto il 19 agosto del 2009, nel corso di un matrimonio. Quindi, perché insomma, ora le riunioni, si fanno, le riunioni, i battezzi, i passaggi di grado, si fanno durante i matrimoni, i battezzi, le cresime, cioè, per questo ci sono questi matrimoni sfarzosi di oltre 1000 persone, certo. È solo una forma di esternazione del potere, ma anche l'occasione formale per potersi riunire, assemblare in questo modo così numeroso. E quindi ci sarà ancora, probabilmente in questo periodo sarà stato celebrato, sarà per essere celebrato qualche grande evento sfarzoso di questo tipo. Ci saranno tantissime piccole e medie riunioni, perché sarà l'oggetto di discussione a tutti i livelli, da parte di tutti gli 'ndranghetisti del mondo. Certamente. È stato, naturalmente, questa indagine è stato un terremoto per l''Ndrangheta, e non solo. E quindi bisognerà sicuramente fare, occorreranno adesso fare tante riunioni per discutere non solo le strategie, ma anche chi prenderà il posto di questi soggetti in difficoltà. Certamente. Ricordiamo che una regola dell''Ndrangheta è che, ad esempio, il contabile non può essere latitante, perché il contabile si deve detenuto, perché il contabile si deve muovere liberamente per fare assistenza economica ai familiari, ai detenuti, eccetera. Assolutamente. Allora, una ultima riflessione, Gratteri, che è questa qui. Noi sappiamo che in quell'area per tantissimi anni ha insistito con le sue prediche, con la sua religione vissuta ogni giorno, un grandissimo prete, mi piace usare questa espressione, che era Monsignor Brigantini, che poi se n'è andato, io dico, perché gli hanno detto chiaro papale o te ne vai o comunque sarai fatto fuori. Io ho questa convinzione che non mi toglierà mai nessuno dalla testa, e quindi se n'è andato. Ecco, ma la Chiesa, secondo lei, Gratteri, oggi risponde o continua, come qui ai nostri microfoni anni fa alcuni preti hanno detto, continua a negare che quello sia un posto, oltre che di adorazione della Madonna, anche di riunioni di 'Ndrangheta? Guardi, sul punto la Chiesa negli anni passati non ha preso posizione, ha sempre negato l'esistenza e la presenza della mafia, dell''Ndrangheta, anche nel corso della festa della Madonna di Polsi e della presenza dell''Ndrangheta nell'occasione della festa di Polsi, strumentalizzando la stessa festa. Su questo c'è da riflettere e parlare quantomeno di miopia. Allora, mentre questo vescovo ha scritto una lettera molto importante, chiara, che ha denunciato e condannato e chiesto all'Andrangheta di stare lontano dal santuario, a stare lontano, di non usare, di non utilizzare la chiesa della Madonna di Pozzi, la religione, il riferimento ai santi per fini criminosi, certo. Condannando apertamente questo comportamento mafioso. Benissimo, benissimo. Io ritengo che questo vescovo sia la persona giusta per un nuovo percorso. Ma allora noi domani avremo proprio ospite il vescovo Morosini, quindi io ringrazio Nicola Gratteri per la sua splendida testimonianza, dico grazie in regia a Filippo Aureggi e in studio a Valeria Coffaro, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani, parleremo ancora di 'Ndrangheta e del santuario di Pozzi.